Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le solenni messe della resurrezione nella cattedrale dei quattro capoluoghi. Per l'arcivescovo di Udine Mazzocato si è trattato dell'ultima celebrazione pasquale da arcivescovo dopo che ha chiesto l'esonero per raggiunti limiti di età. Durante l'omelia si è detto commosso, ha invitato i fedeli a prendere l'esempio per Pasqua di una rinascita, come ha fatto un detenuto del carcere di Tolmezzo che battezzerà domani. Dalla cattedrale di Trieste il vescovo Trevisi ha augurato alla comunità di sostenersi per superare l'inverno demografico. I musei aperti, il mercatino nelle vie del ghetto e 3 mostre di grande richiamo stanno riempendo Trieste di turisti. Dal direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica, nel 60° anniversario dell'organismo che opera a Trieste nell'ambito dell'ONU, l'appello a rendere l'intelligenza artificiale e la capacità di calcolo più eque. Intanto i militari del 132° Carri Ariete di Cordenon sono in missione in Bulgaria, costituiscono il reggimento framework del gruppo tattico della NATO nel paese balcanico. Serie A ferma per Pasqua, l'Udinese chiuderà domani la 30° giornata contro il Sassuolo, intanto la Triestina che ieri ha vinto 2-1 sul campo di Arzignano è terza in classifica. Ancora buongiorno e buona Pasqua da Nada Choc. Il mondo cattolico celebra la resurrezione di Cristo. Il Papa nel suo messaggio pasquale ha auspicato la pace per tutti, lo scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina e ha fatto nuovamente appello che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza. Hanno pregato per la pace anche i vescovi e gli arcivescovi della nostra regione durante le messe solenni nelle cattedrali. La prima messa del Resurrexit l'ha celebrata l'arcivescovo di Gorizia, Carlo Maria Redaelli, alle 6:30 nella cattedrale. L'arcivescovo di Udine Mazzocato ha celebrato la messa di Pasqua nella casa circondariale e poi ha anche celebrato la messa nella cattedrale. È stata la sua ultima omelia perché per aver superato i 75 anni a metà aprile arriverà al suo posto Monsignor Riccardo Lamba, quindi per Monsignor Mazzocato anche l'ultima Pasqua celebrata con le vesti da arcivescovo. Nella sua omelia, parlando di resurrezione, ha portato l'esempio di trasformazione della vita, citando l'esempio di un detenuto del carcere di Tolmezzo che domani sarà battezzato proprio da lui. E a Trieste il vescovo Enrico Trevisi, durante la sua omelia nella cattedrale di San Giusto, ha auspicato che la comunità possa uscire dall'inverno demografico, cioè rinascere. Care famiglie giovani, osate dare la vita, la gioia di essere genitori e la comunità vi sostenga nella complicità gioiosa dell'educare i figli. Guardano al futuro le parole del vescovo di Trieste Enrico Trevisi nella sua omelia pasquale nella cattedrale di San Giusto, gremita di fedeli. Le giovani coppie certo non mancano, i bambini piccoli si dimostrano pazienti, seduti composti accanto ai genitori, ma non sono le giovani generazioni a riempire la chiesa. Le parole di Monsignor Trevisi, nulla di più attuale. L'Istat ha appena pubblicato dati sempre più sconfortanti: 14.000 bambini nati in meno in un solo anno, addirittura 197.000 nascite in meno rispetto al 2008. Del resto ha parlato di deficit di speranza fin dal messaggio per la Santa Pasqua diffuso in questi giorni di attesa della resurrezione di Cristo. Non ci sono le energie per impegnarsi, si è depressi. Pensando soprattutto alle giovani generazioni, Trevisi ha detto: mi ha colpito in una scuola di Trieste vedere uno striscione scritto dai ragazzi che chiedevano a gran voce lo psicologo. Dobbiamo interrogarci tutti come società e anche come chiesa, dobbiamo far la nostra parte. La luce della Pasqua ci consenta la libertà di rialzarci. Il vescovo parla all'incompreso, al non amato, all'isolato. Ha citato il disorientamento delle famiglie, il rilancio dei siti produttivi, la salvaguardia del creato e il dramma dei migranti. Il silos va chiuso, aiutiamo le istituzioni a farlo, ha detto, che la forza del volontariato aiuti l'accoglienza dignitosa di queste persone. E poi ha ricordato che il 7 luglio Papa Francesco sarà a Trieste, ci trovi impegnati nell'affrontare insieme le sfide del futuro, con il desiderio di partecipare alla costruzione della Chiesa e della democrazia. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo il meteo con il cielo coperto su tutta la regione, le temperature: Trieste 18 gradi, Gorizia 17, Udine 16, Pordenone 14, Tarvisio 12, Tolmezzo 9, Piancavallo 6 gradi 5 decimi, Forni di Sopra 6 gradi, Sappada 5, Sullussari 4 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 2 gradi e 5 decimi, Agrado e Lignano 15 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA FVG: precipitazioni sparse intermittente anche a carattere di rovescio temporalesco, con possibilità di schiarite, precipitazioni abbondanti in montagna, sulle Alpi prealpi carniche, da moderate ad abbondanti sulla pianura, da deboli ad assenti sulla costa. È il meteo incerto che non invita alla scampagnata, i musei aperti e 3 mostre di grande richiamo: i quadri di Van Gogh della collezione Kröller-Müller, l'Amazzonia di Salgado e Cosmos riempiono Trieste di turisti. Lunghe code, prenotazioni praticamente esaurite, turisti arrivati appositamente dall'estero e altri che hanno visto il meteo e hanno approfittato dell'occasione. Del resto, il nome è un richiamo irresistibile. Vincent van Gogh a Trieste, al Revoltella, fa il pieno nel weekend di Pasqua. 2100 biglietti venduti nella sola giornata di ieri. Tra oggi e domani, i numeri, complice la pioggia, potrebbero essere significativamente superiori e superare le 5000 unità. L'entusiasmo per le opere del pittore olandese non ha età, tantissime le famiglie, le giovani coppie, i bambini, tutti molto colpiti da un allestimento immersivo e ben studiato, anche se non eccessivamente vasto. Come spesso accade durante le festività, a stare alla larga dalla mostra dell'anno sono stati i triestini, ma del resto c'è tempo, fino a giugno. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. L'ICTP, il Centro di Fisica Teorica di Trieste, che fa capo all'ONU, festeggia i 60 anni della fondazione. L'organismo nei prossimi 10 anni dovrà garantire un accesso equo all'intelligenza artificiale, più in generale al calcolo scientifico. C'è il gruppo di tecnologie e saperi che comprende gli algoritmi di machine learning, i supercomputer, il data science e il quantum computing. Ne è convinto Atish Dabhalokar, fisico indiano alla guida dell'ICTP, che aggiunge che l'intelligenza artificiale e probabilmente il calcolo quantistico cambieranno completamente il modo in cui si fa scienza, e dunque non possiamo rimanere nelle mani di poche aziende in California. Per questo, continua, abbiamo creato il Consorzio Internazionale per il Calcolo Scientifico, a cui hanno già aderito diverse nazioni. Il personale del 132esimo Reggimento Carri Ariete di Cordenon si trova in Bulgaria nell'ambito dell'operazione NATO di rafforzata attività di vigilanza EVA. L'operazione in Bulgaria nasce in risposta all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, avvenuta nel corso dell'anno 2022. La NATO ha quindi voluto consolidare la propria presenza sul fianco est dell'alleanza, costituendo 4 nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, ciascuno con a guida una Framework Nation. L'Italia, in qualità di Framework Nation, ha assunto la guida del battaglione multinazionale presente sul territorio bulgaro nell'ottobre del 2022. Mentre l'Udinese attende la sfida sul campo del Sassuolo domani, la triestina, dopo la quarta vittoria di fila raggiunta ieri ad Arzignano con i gol di Lescano e Gunduz, è terza in classifica con 59 punti e mercoledì torna in campo per il recupero con l'Atalanta Under 23. Il servizio. Il quarto successo consecutivo per la triestina arriva in Veneto e vale il terzo posto in classifica. Eppure, l'inizio della partita ad Arzignano non lascia presagire nulla di buono. Il vantaggio dei padroni di casa arriva alla prima sortita di Mattioli. Il suo potente destro tocca il palo di Matosevic e si insacca. Il portiere alabardato lascia la triestina in partita poco dopo grazie a un doppio intervento, prima sullo stesso Mattioli e poi sull'Acti. Suona finalmente la sveglia in casa alabardata. Prima Elasrak sfiora la traversa dal vertice dell'area, poi al 37esimo ispira il meritato pareggio con un assist rasoterra che Lescano spinge in rete. Triestina arrembante e con personalità anche in avvio di ripresa, e il meritato premio arriva a metà tempo grazie al mancino di Gunduz che infila imparabilmente all'incrocio dei pali. I padroni di casa provano ad alzare il baricentro, ma riescono a impensierire l'Unione solo con un destro dalla distanza. La festa per il terzo posto è compiuta, il Vicenza perde con la Prosesto e ora la Triestina è sul podio. Andrea Covere, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket in A2 vincenti ieri sera in casa, pallacanestro Trieste e Gesteco Cividale. Trieste ha messo a tappeto il Vigevano e ha chiuso con 103-57. Gesteco si è imposto con Cantù nella partita che è finita 82-59 ed è entrata in zona playoff vista l'inaspettata sconfitta di 100 in casa contro Latina. E con questo chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Federico Comare e Eugenio Giuffrida. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi ancora l'augurio di una buona Pasqua. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.